GR Sport. Buongiorno a tutti da Carlo Genta. Per la prima volta lo scudetto della pallavolo arriva a Trento. Ce lo porta l'Itas, che batte 3-0 Piacenza nella bella della serie di finale. Trento implacabile, perfetta e più fresca degli emiliani. Magnificamente guidata dall'ex Nicola Grbic, che dopo 4 finali perse assaggia finalmente il sapore del titolo italiano. Posso dire solo che abbiamo affrontato una grandissima squadra. Mi dispiace per i miei ex compagni, che li voglio tanto bene. Grandissimi amici, grandissime persone, grandissimi giocatori, però uno doveva vincere e sono contento che sono stato io. E ora andiamo al calcio con l'Inter di nuovo in finale di Coppa Italia dopo il 2-0 all'Olimpico contro la Lazio. 0-0 dopo il primo tempo con la Lazio più pericolosa. Nella ripresa i gol di Pelé al 7° minuto e di Cruz al 40°, complice una clamorosa incertezza in uscita di Ballotta. Il tutto in un mare di nervosismo, soprattutto nerazzurro, con le espulsioni di Mancini e poi di Marco Materazzi. Da valutare sul fronte nerazzurro anche gli infortuni di Chivu e Burdisso. Sentiamo il capitano dell'Inter Xavier Zanetti e poi l'allenatore della Lazio Delio Rossi con la Rai. Stagione importante, volevamo questa finale, credo che stasera abbiamo fatto una buona partita e adesso dobbiamo recuperare le energie per lo sprint finale di campionato di domenica. La prima partita era questa, e adesso prepariamo la partita domenica, che vuol dire tantissimo per noi, per la storia dell'Inter, però credo che se giochiamo come questa sera abbiamo grandi presupposti di poter vincere la partita. Vista la partita, quest'anno un po' è la fotocopia della nostra stagione, giochiamo anche discretamente, solo che concretizziamo poco e loro hanno ottenuto, come forse l'andata, il massimo utile col minimo sforzo. La Lazio quest'anno ha fatto una stagione non all'altezza, ma secondo me ci sono le basi per ripartire. L'importante è che però non si butti via l'acqua anche con tutto il bambino, perché secondo me non è tutto negativo. La finale potrebbe essere Inter-Roma per il quarto anno consecutivo. Oggi la palla passa ai giallorossi, che vanno a Catania a difendere l'1-0 dell'andata firmato da Totti, ma i pensieri di Spalletti sono tutti per il finale, per le ultime partite di campionato. Noi si dice che si sono già vinte tutte e due e che loro si tenta di sfruttare quello che invece non porteranno a casa loro. Noi le partite dobbiamo giocare come l'Inter. Noi contro l'Atalanta abbiamo da vincere. Secondo me il ciclo è già stato iniziato, è stato portato avanti nei migliori modi, è stato migliorato, è stato chi è stato più fortunato di noi. Dopo Luca Toni, un altro campione del mondo emigra in Germania. Si tratta di Cristian Zaccardo, che lascerà il Palermo per il Wolfsburg, ma al centro del mercato c'è sempre il Milan. Sentite chi comprerebbe Kakà. Io comprerei Messi. In questo momento, secondo me, è un giocatore che mi piace guardare, che mi piace vedere, è un giocatore che fa la differenza in una maniera incredibile. Se io potessi prendere un giocatore, prenderei Messi. Possiamo giocare insieme, certo, come posso giocare con Ronaldinho, come posso giocare con Pato, come gioco con Pippo, è tutto quello che ho detto, è una questione di adattarsi uno all'altro. Infine il tennis, la sorpresa più grande agli internazionali d'Italia, con Rafa Nadal, numero 2 al mondo e 3 volte campione al Foro Italico, che perde in 2 set al debutto romano dal connazionale Ferrero, complici dei problemi al piede sinistro per Nadal. Per quanto riguarda gli italiani, Simone Bolelli batte in 2 set il francese Simon ed è il primo azzurro negli ottavi, dove troverà Roddick. Niente da fare invece per Andreas Seppi in un incredibile match a chi commette più errori gratuiti con lo statunitense James Blake. È tutto per GR Sport di questa mattina, di nuovo buona giornata.